Ci siamo capiti male, ma siamo capitati bene. Ci siamo capiti male. Abbiamo tempo per rifare, abbiamo tempo per morire. Ci siamo capiti male. Amore no, no, no. Amore mio, non posso perderti. Non ho più voce per convincerti. Amore no, no, no. Ci siamo capiti male, ma abbiamo cominciato bene. Ci siamo capiti male, male. È stato un canto di sirene, ero distratto e senza vele. Ci siamo capiti male. Amore no, no, no. Amore mio, non posso perderti. Ho chiesto ancora scusa al tuo Dio, che non sarà capace anche di vivere. Se tu non stai con me, amore no, no, no. Amore mio, non posso spegnerti. Ho chiesto ancora scusa al tuo Dio, sarò capace anche di vivere. E se tu non stai con me, ci siamo capiti male. Ci siamo capiti male.